Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buona Pasqua a tutti. Ogni promessa è debito. Oggi non vi rompiamo le uova con storie di cronaca, non vi costringiamo a telefonare nel giorno di Pasqua. Oggi chiacchieriamo insieme e per questo ogni promessa è debito c'è Andrea Zorzi. Buona Pasqua, Andrea. Ciao a tutti, buona Pasqua e ben ritrovati. Cos'hai trovato nell'uovo? Non me lo ricordo l'uovo. Ho mangiato la cioccolata molto volentieri e il gioco me l'ha rubato Numa, che è mio figlio, immediatamente. Io invece un sacco di bollette, è per questo che anche oggi siamo qui a lavorare. L'hanno recapitate dentro l'uovo di Pasqua. Penso come sono perfidi, pazzeschi. No, allora c'è stato tanto sport ieri, però oggi vogliamo chiacchierare un po' insieme. Puntata stile sabato, nell'inversione del weekend, qui la cronaca ci ha costretto. Non c'è stata cronaca nel mondo dei motori, però vorrei notare insieme a te come il rosso è assai poco di moda quest'anno. Poi bisognerebbe chiedere a qualche collega qua in giro, soprattutto sul fronte femminile. È di moda se abbinato al nero, ma il rosso puro, total look, total color, è poco di moda. Non è un momento brillante. No, non è un momento brillante per niente, né per il rosso né per Rossi, ne parleremo. Mario Boltronieri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e naturalmente mi allineo anch'io. Buona Pasqua a tutti. E buon uovo. Senti Mario, sarà una Pasqua, io immagino, di lavoro a Maranello, dove peggio di così era difficile. Guarda, per scrupolo sono andato a recuperare le classifiche dopo tre Gran Premi l'anno scorso e due anni fa. L'anno scorso c'era una Rossi in testa, era quella di Massa, 39 punti, poi è finito sesto. Seguito da Vettel 37 insieme ad Alonso, quindi l'altra rossa lì competitivissima davanti, Rosberg e Button 35 e Hamilton 31. L'anno prima, con ovviamente punteggi distribuiti in maniera diversa, avevamo Button 21, Barrichello su Ferrari 15, Vettel 10, Webber 9,5, Hamilton 4, Alonso 4. E quest'anno invece la classifica è meglio non leggerla, sennò ci viene da piangere. Beh, diciamo che le aspettative erano differenti. Purtroppo io trovo che sempre la Ferrari tende a puntare sempre sull'ottimismo prima di avere le conferme reali. Quello che mi stupisce è che nel bailamme dei discorsi che si sono fatti in questi giorni sia saltato fuori questo problema della galleria del vento, che avrebbe dato dei risultati che poi non sono stati confermati dalla pista. Questo mi sembra una cosa abbastanza preoccupante, perché è la prima volta che sento una cosa del genere, soprattutto perché la galleria del vento è diventata importante nel momento in cui si è detto, per risparmiare, e mi sembra umoristico, non facciamo più le prove, tanto abbiamo la galleria del vento, con quella possiamo. Ecco. Quindi adesso il problema della Ferrari direi che ha aggiunto un terzo polo, che è quello del cercare di capire se e perché la galleria del vento dà delle risposte che non corrispondono poi alla pista. Ma il problema grosso rimane sempre quello che, osservando gli avversari, ci si rende conto comunque che l'aderenza è inferiore a quella degli altri, lo sfruttamento dei pneumatici non è simile, insomma c'è tutto un insieme di cose per cui la Ferrari è, non voglio offenderla dicendo una comprimaria di lusso, comunque è una macchina che, soprattutto con la crescita recente della Mercedes e della Renault, rischia di far parte di un gruppo di cinque e non di essere la terza. Sì, sì. Quindi, sì, sì. È un problema grosso che stanno cercando di affrontare. È difficile capire quanto tempo ci metteranno a raggiungere la situazione, anche perché le notizie che si leggono non sappiamo quanto sono vere, naturalmente, perché nessuno ufficialmente dà conferme, sono di modifiche che vengono fatte in funzione di quelle che sono le soluzioni che hanno adottato, per esempio, la Red Bull. Non mi pare per una casa dell'importanza e della tradizione della Ferrari che si possa parlare di imitare o di copiare, soprattutto. Certo, certo. La Ferrari dovrebbe fare scuola, la Ferrari, non trovarsi al ruolo dell'inseguitrice. Ma, tra l'altro, ti dirò, quando ci fu appunto il caso scandalo del furto dei dati alla Ferrari, comunque i competenti sanno che è difficile copiare. Quando si hanno questi dati c'è un solo vero vantaggio, che vedi quali soluzioni sicuramente non funzionano e quindi certo. non vale la pena di provarle, cioè guadagni del tempo sullo sviluppo del progetto, certo. ma per tutto il resto purtroppo è legato alle capacità di fare qualche cosa che sia omogeneo. Questo è evidentemente difficile. Se prendiamo l'ultima battuta di Briatore, addirittura lui pensa che per quest'anno la Ferrari sarà sempre all'inseguimento. Io non sono così pessimista, anche perché abbiamo avuto esempio in altre stagioni di avere un recupero eccezionale. Sì, no, no, poi si gioca tutto più avanti, però è indubbio che la Ferrari si trova ad inseguire. Andrea Zozzi, la Ferrari esteticamente non è mai piaciuta. No, aspetta, no, parliamo di Formula 1. Quando escono le macchine nuove di questa è bellissima, si diceva che mi sfugge un po' quali siano i criteri estetici che rendono bella o brutta la macchina. Però una domanda per Mario Poltronieri, perché vorrei che mi aiutasse un po' a uscire dalla quotidianità di queste informazioni, di queste notizie che sono a volte falso ottimismo, che sono poi delusioni, e provare ad ampliare un po' la prospettiva con cui si guarda la Ferrari. C'è un momento, ormai risale qualche anno fa, in cui si dominava il mondo facilmente, poi è accaduto qualcosa che può essere identificato come il momento nel quale le sorti e le fortune della Ferrari sono cambiate? Ma invece la storia della Ferrari è lunghissima, ci sono stati momenti in cui la Ferrari non era competitiva, in fin dei conti ricordiamoci quante volte non ha vinto il titolo mondiale, in fin dei conti l'Auda l'ha vinto nel 75 e nel 77, poi si è dovuto arrivare al 79, poi si è dovuto aspettare il periodo di Schumi. La realtà è che la Ferrari è sempre stata una protagonista importante, perché già il personaggio Ferrari aveva un carisma e un peso nell'organizzazione del mondo della Formula 1, per cui la Ferrari comunque era elemento determinante. Quindi se si toglie la Ferrari alla Formula 1, crolla non solo negli ascolti italiani, ma l'interesse di tutti gli sponsor di tutto il mondo. Quindi la Ferrari è fondamentale, da questo nasce la necessità di essere però sempre protagonista. Il problema è che continuando a aggiornare e complicando i regolamenti con questa aerodinamica che è stata esasperata oltre ogni logica, è evidente che basta che uno inventi un buco messo da una certa parte che il regolamento non prevede che non si possa fare, ed ecco che salta fuori la Brawn ex Honda che va fortissima per metà stagione prima che gli altri abbiano capito dove è il trucco. Quindi io credo che, siccome in questi giorni si sta discutendo molto anche del regolamento 2013, quando le cose cambieranno radicalmente, credo che l'impegno della Ferrari, e sotto questo profilo Montezemolo l'ha lasciato già intendere, debba essere verso la ricerca di un regolamento che sia più facilmente interpretabile, quindi relativamente più semplice. Sento però che si parla anche di scelte, diciamo, abbastanza d'avanguardia per una Formula 1, e cioè però, Mario, perdonami, però c'è anche da dire che insomma Andrea faceva riferimento ad un momento che magari può essere legato anche a persone. Esiste una crisi del muretto Ferrari, perché da quando Todd ha cambiato mestiere insomma qualche problema in più c'è stato, o difficoltà di assestamento, insomma credo sia dovuto sia ai regolamenti e a strategie diverse, però forse anche a uomini che sono cambiati. Ma io sì, francamente, oddio, tanti uomini sono stati anche cambiati. Non sono così convinto che sia un problema di muretto. Io penso che il problema vero sia che non sono riusciti ancora a trovare la soluzione ideale perché la macchina dia il massimo delle prestazioni. Perché non dimentichiamoci che anche nel momento in cui c'era il miglior Todd, ogni tanto la Ferrari veniva accusata di fare sempre delle scelte tattiche conservative. Ma questo succedeva anche con Todd, solo che Todd aveva un'autorevolezza maggiore e quindi nessuno aveva il coraggio di affrontarlo e di attaccarlo direttamente, come si fa adesso per il povero Domenicali, sì, che si prende sulle spalle anche delle responsabilità che non sono sue, che sono quelle di progetto. Sì. Quindi io credo che qui la Ferrari deve sicuramente affrontare la situazione per cercare di tornare a essere una protagonista, e sotto questo profilo, abbiamo detto anche recentemente, bisogna cercare di motivare maggiormente Alonso, che dopo l'ultima gara è rimasto piuttosto depresso, e questo è un pessimo segno in un pilota che invece notoriamente nella sua carriera è sempre stato un attaccante, è sempre stato uno convinto di disporre di un mezzo che gli avrebbe consentito di fare grandi cose. No, no, ma certo, certo è così. Alonso non, probabilmente non crede nella macchina che ha in questo momento, e questo è forse il principale dei problemi. È vero che quando non si vince è facilissimo, perché non fuori le spinte eccentriche, ti dico la sua, però rispetto a quel team molto compatto che ha caratterizzato la Ferrari molti anni fa, forse grazie all'autorevolezza di Jean Todt, forse alla presenza magari anche di Montezemolo più vicino alla squadra, questo non lo so dire con precisione. O Schumacher indubbiamente grande catalizzatore, insomma, era la chimica della squadra che funzionava. Esatto, adesso però questa sorta di compattezza si è persa, e guarda caso è strettamente legata anche ai risultati, perché poi è vero che la Formula 1 è complicata nel suo insieme, ma tutti gli altri hanno comunque le stesse identiche regole. Sì, sì, non c'è dubbio. Mario, ti ringrazio, buona Pasqua di nuovo. Buona Pasqua a tutti. Grazie, un abbraccio. Ciao a tutti. Grazie Mario Poltrone, discorso interessante questo. Possiamo aggiungere anche un altro discorso, che è quello relativo alla pressione. Anche a te mille volte è successo di avere i favori del pronostico, e la Ferrari parte con i favori del pronostico tutte le volte, team potente, con un sacco di soldi, con i piloti migliori, e adesso devi vincere, e se perdi, cioè, è un problema anche più grande di quanto possa in realtà essere. Sì, questo è vero, però sempre da superficiale appassionato di Formula 1 è come se avessi l'impressione che i centri di potere della Formula 1 sono pochi. Sì. Sono poche persone che, spostandosi da una parte all'altra, cambiano gli equilibri della Formula 1. Sì, è un discorso molto interessante, anche quello relativo ai top driver, no? Tu hai adesso ne parliamo, ci vediamo per il traffico. Hai Schumacher, ok, devi vincere. Hai Alonso, il più bravo pilota, dici: con Alonso non posso perdere. Stesso discorso puoi fare con Valentino Rossi. Poi parliamo anche del problema dell'altro rosso che non funziona, cioè quello della Ducati. Ducati, Valentino Rossi, ma sì, mette a posto la moto e vince, ha sempre fatto così in tutta la carriera. Invece magari non è così. Traffico. L'attuale crisi economica che vive nel paese. L'aiuto europeo non è un the recovery of the European economy. On veut surmonter la crise per non la subire. Sarà un altro anno in salita per un'Europa stretta tra l'espansionismo asiatico e il protezionismo americano? Focus Economia. Ogni giorno le scelte delle imprese, i movimenti della borsa, in tempo reale. Anche sul canale 700 di Sky. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, col nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Nessun problema per chi è alla guida su strade e autostrade della penisola, il traffico infatti si mantiene scorrevole, raccomandiamo però prudenza a chi viaggia sulla 12 Genova-Rosignano, un veicolo in avaria è segnalato all'altezza dello svincolo di Rosignano sulla carreggiata sud, un altro veicolo in avaria è segnalato sull'autostrada del Sole tra l'allacciamento per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Ricordiamo in chiusura il numero verde per le vostre segnalazioni sul traffico, è l'800-083622. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Radio 24 presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Uno scenografo e una redattrice di interni. L'incrocio di due professioni, di due eccellenze artigiane e di due destini che sfocia in ben 7 nomination e 2 Oscar. Dante Ferretti e la sua non metà, come dice lui, ma tre quarti, Francesca lo Schiavo. Domani a Destini Incrociati. Destini Incrociati. Tutti i giorni alle 15 e alle 23 su Radio 24. Tempo di sport. Ecco che torniamo, io Andrea Zorzi, per tenervi compagnia in questo giorno di Pasqua. Vi lasciamo alle colombe, non vi chiediamo oggi nemmeno di chiamarci. Vogliamo chiacchierare io e lui, io e Andrea, i nostri ospiti. No, parlavamo di piloti, di soldi, di macchine che dovrebbero essere vincenti, non lo sono, e si diceva, Andrea, dei centri di potere della Formula 1. E indubbiamente la Ferrari è un centro di potere, cioè grande potere economico, grande potere di immagine, insomma. è un potentato della Formula 1, quindi quando non vince ti sorprendi. Poi si diceva prima, microfoni spenti, ma non è un segreto, è un'opinione. Hanno molti quattrini e quindi dove sono arrivati la Red Bull l'anno scorso, dove è arrivato Ross Brawn, altro fuoriuscito dalla Ferrari, se ben ti ricordi, dove era arrivato lui con le sue soluzioni, con pochissimi soldi l'anno prima, poi li raggiungi perché hai tanti quattrini da mettere lì nello sviluppo, però parti sempre con l'handicap nonostante i grandi investimenti. Temo accada abbastanza spesso che anche le grandi aziende, quelle super strutturate, non sono così veloci, così dinamiche da cogliere subito l'opportunità di un regolamento o di un mercato che cambia in fretta. Però è un po', fa un po' impressione che nel corso degli ultimi anni questo complicatissimo regolamento abbia sempre comunque dato vantaggi notevolissimi agli altri, che forse con qualche colpo di genio in più o facendo le nozze con i fichi secchi hanno fatto meglio della Ferrari, che poi ci mette un sacco di soldi, che ha competenze di altissimo livello. Però pesa anche il fatto che la sensazione è che noi arriviamo, parlo noi come Ferrari, arriviamo un po' dopo, certo, come degli elefanti che stanno un po' correndo alla rincorsa, ci si arriva, mentre gli altri sono quelli che stanno scappando un po' in fuga. Certo. Conosce Alessia Gruciani, inviata dalla Gazzetta dello Sport, nostra amica? Di nome. Te la presento. Alessia, buongiorno. Buongiorno. Stiamo discutendo del rosso che non è più di moda, non solo quello della Ferrari ma neanche quello della Ducati, e neanche Rossi forse è più di moda, no, adesso sto esagerando. Ma no, dai, torneranno di moda tutti, sono sicura. Ma magari con calma e a rate, fatto sta che al momento siamo così. No, ma io Andrea Zorzi... Al momento seguono, sì. Esatto, io Andrea Zorzi dicevamo, prendi Valentino Rossi, lo metti sulla Yamaha, la Yamaha comincia a vincere, lo metti sulla Ducati e tu dici, bah, dai, la Ducati è difficile da guidare, ha i suoi problemi eccetera eccetera, però è impossibile che Valentino Rossi non arrivi con la bacchetta magica e al primo Gran Premio non stracci tutti. Invece è così, complice la spalla, complice quello che vuoi, però è crisi. In effetti ci aspettavamo tutti che Valentino facesse il miracolo anche sulla Ducati, anche perché quando lui andò sulla Yamaha, la Yamaha era una moto da metà schieramento, vinse la prima gara, la Ducati esatto, invece ha finito il campionato vincendo e con Stoner, per cui non è, era una moto comunque vincente. E quindi che cosa è successo? Ha lasciato in Giappone la bacchetta magica? No, effettivamente è una moto difficile da guidare, lo ammette Valentino adesso, per cui se lo ammette lui, che è sempre di un'onestà incredibile, bisogna crederle. Dice, stiamo ancora cercando di capire come faceva Stoner a guidarla, per cui è in difficoltà, però stanno lavorando, stanno cercando di fare delle modifiche sul telaio, ha chiesto delle modifiche anche al motore, non per la potenza ma per renderlo più guidabile, più dolce nella guida, e chissà, speriamo che in questa lunga pausa... Occorre considerare anche che ormai Valentino, buon per lui, a una certa età, ha fatto molta esperienza, e gli atleti che adesso, i piloti che lo stanno, come dire, insidiando, sono cresciuti senza subire il suo carisma. Ricordate Gibernau, che era un buon, però l'aveva massacrato tante volte, che ha smesso di correre per disperazione. Questi sono cresciuti quindi un po' all'ombra del grande Valentino Rossi, imparandone un po' le tecniche e potendo contare quindi su un fisico ma anche su una determinazione che è tipica dei giovani. Quindi è come se il livello medio del circuito, del circo dei piloti, fosse cresciuto molto. Poi evidentemente la Ducati non è certamente facile da domare, e però gli altri hanno disponibilità, bravura e grande voglia di fare, e tutto questo messo insieme potrebbe essere un buon cocktail per gli altri. Senti, ma è successo anche a te, sì, nella pallavolo. Scusami, questa è una considerazione interessante, però volevo approfondire con Andrea Zorzi. È successo anche a te che arrivassero i giovani e magari non avevano tutto sto timore reverenziale nei tuoi confronti? Beh, questa è la vita di un atleta che cresce. In alcuni sport dove la tecnica è molto importante puoi ancora fare affidamento sulle tue abilità dell'esperienza. Negli sport, quelli più di performance fisica, il cambio generazionale è un po' più veloce. Ma c'è stato un momento in cui hai detto, mannaggia questi... Sì. Ed è molto faticoso. Ma guarda che per Valentino, effettivamente, questa nuova sfida è molto complicata. Prima perché non è la Yamaha che non vinceva mai, che con lui può fare solo meglio. La Ducati ha vinto con Stoner. Lui arriva in Italia, ha qualche anno in più, qualche acciacco, e questi ragazzi agguerritissimi, privi anche di quel rispetto che il grande campione vorrebbe che avessero nei suoi confronti. Alessia, così? Sì, insomma, diciamo che io credo che i piloti con cui combatte ora Valentino siano più forti, per esempio, di Gibernau. E però negli scontri diretti, quindi come talento, diciamo, non si discutono nemmeno i vari Stoner, Lorenzo e anche Pedrosa. però se vi ricordate tutti gli scontri diretti corpo a corpo che ha avuto Valentino con questi suoi rivali, si è visto che insomma lo subiscono, e come, insomma, Lorenzo ha perso sempre, di Stoner è rimasto famoso lo scontro alla Laguna Seca. Sì. No, ma Valentino si sente, si fa, ancora lo subiscono. Non c'è dubbio, qualche anno fa, però guarda che anche qualche settimana fa, quando Stoner disse le tue aspettative sono più grandi del tuo talento, dirlo a Valentino significa che stai facendo un passettino in avanti e che la difficoltà che dimostra in questo momento Valentino è proprio la benzina che dà a questi ragazzi più giovani la voglia di essere ancora più determinati. Poi sulla pista sentono l'odore del sangue. Esattamente. Valentino, ci mancherebbe altro, è un totem, ma a livello mondiale lo sarà per sempre. Adesso però se lo stanno mangiucchiando, lui non va più così forte per varie ragioni e gli altri non vedono l'ora, e c'hanno anche i sassolini nelle scarpe da togliersi. Alessia, ma infatti, se possono, inseriscono, dimmi, anche a parole, eh? Sì, no, ma insomma, non perdono occasione. No, ma sento l'odore del sangue, come è così, molto crudele anche, se vogliamo crudo, ma non adattissimo al giorno di Pasqua, però lo sport è questo. Ma secondo te quanto ha influito quella spalla sulla mancata confidenza tra Valentino e questa moto, sul mancato sviluppo, sulle mancate prestazioni di questo binomio Valentino-Ducati? Io credo sicuramente ha influito, perché Valentino non è in forma e quindi non, sicuramente insomma è stato operato a novembre, a metà novembre, una brutta operazione, complicate, tendini, per cui il tempo per recuperare, anche i medici l'hanno detto, ci vuole. Poi, come si dice, a pensare male si fa peccato, poi oggi è Pasqua e magari non è il caso di inserire, ma molti piloti dicono sì, quando va bene la spalla non fa male, quando non va bene c'è sempre qualche dolorino che esce fuori, e questo lo sa solo Valentino quanto influisce. Ma guarda che anche la spalla è un po' un simbolo, nel senso che abbiamo vissuto per anni nell'idea che i piloti di moto mondiale fossero dei Superman, cascavano per terra, si fratturavano, si rompevano, salivano in macchina, grazie anche al medico Costa, che faceva miracoli, cosiddetti veri e propri miracoli. Adesso il fatto che il tempo di guarigione sia molto più lungo è legato al fatto che effettivamente, un po' per questioni burocratiche e anagrafiche, ma anche per, credo, delle motivazioni profonde. Cioè per Valentino è un po' più difficile adesso avere quella feroce determinazione che lo ha caratterizzato per un periodo così lungo. Bravo Andrea, non è corretto, sta anche diventando amico di Biaggi, che è tutto dire, eh? O no, Alessia? Diciamo che Biaggi un po' che si va verso Valentino ancora Guardingo. Sì, è stato più così al momento, insomma, sì. No, quello dovrò, non so se ci crederò, nemmeno vedendolo con i miei occhi. Aspettiamo conferme a tal proposito. Ma è vero che è un po' meno feroce di prima, eh? Al di là dei problemi reali alla spalla, di questo, come Andrea diceva, di questo tallone da valentiniano, no? Questa spalla quasi simbolica, è vero che è un po' meno feroce di prima? Secondo me no. No. No, anche perché se avete visto l'ultima gara a Jerez, Valentino appena visto la possibilità di andare bene, che pioveva, riusciva la Ducati sul bagnato, non si sa perché, ma va bene. E lui anche ha sbagliato, ma ha travolto Stoner, l'ha buttato giù, ma insomma, si è vista proprio la grinta, il cannibale che vuole vincere a tutti i costi, quindi ha usato anche l'inosabile e speriamo. C'è uno per cui io faccio veramente il tifo, è proprio Valentino Rossi, è più forte di me. Anche io sono un grande tifoso di Valentino, però ricordiamoci anche che proprio lui ci ha insegnato che il grande merito era che sapeva dosare perfettamente la sua ferocia agonistica con l'abilità, con la furbizia, con la strategia. Rischiava, andava sui sassi, ma restava in piedi e vinceva sempre. Se rischia un po' di più e burligiò, è un po' un problema, perché non è quello che Valentino ha fatto fino a ieri, all'anno scorso. Allora, è chiaro. Alessia, io ti ringrazio, buona Pasqua di nuovo, un abbraccio. Grazie, tanto a voi, anche a voi. Grazie davvero, grazie ad Alessia Cruciani. Adesso ci fermiamo, ma poi abbiamo un'altra oretta per chiacchierare insieme fino alle 18 con Andrea Zorzi. Abbiamo un sacco di cose da raccontarmi in realtà. A dopo. Caro Andrea Zorzi, dobbiamo mantenere le promesse. Oggi non rompiamo le uova a nessuno col calcio, la cronaca, le moviole, tutte queste cose qui. Oggi parliamo. Oggi saliamo di un piano, cosa dici? Parliamo di questo grande universo sportivo, sì. olimpico. Abbiamo una storia da raccontarvi, più tardi lo faremo con Nicola Roggero. Beh, un'icona della, insomma, neanche dello sport, un'icona della cultura, la storia dei guanti neri, e vi sveleremo in retroscena, se ancora non lo sapete, i guanti neri. Però intanto facciamo due chiacchiere. Innanzitutto auguriamo buona Pasqua e poi facciamo due chiacchiere con una signora che va per là, che vuole andare alla quinta. Alla quinta Olimpiade Tour, cavolo che ce l'hai fatta, arrivare a 5. Cominciamo così proprio. Alessandra Sensini, buongiorno. Ciao, buongiorno. No, Andrea, penso ti guardi con invidia, lui 5 Olimpiadi niente. Ma figurati, sì, no. In effetti sarebbe la mia sesta Olimpiade. No, la sesta? Ci siamo persi qualcosa per strada. Dunque, forse siamo rimasti solo alle medaglie. Atlanta bronzo, Sydney oro, Atene bronzo, Pechino argento, e invece? No, invece avevo fatto anche Barcellona, dove la mia prima Olimpiade del 92, quando provi, arrivai solo settima. Ecco, solo settima. Alessandra, complimenti allora. È quasi, è già che è un record, sai. Sei in compagnia di pochissimi altri atleti che hanno avuto una carriera così lunga. Hai già fatto i conti? Quanti siete? Sì, li sento tutti sulle spalle. No, dico gli anni di questi passati appunto ad allenarsi, a andare a fare Olimpiadi. Però no, siamo sicuramente in pochi e è un onore essere tra queste persone, tra questi grandi atleti, per cui insomma è già una bella soddisfazione la carriera che ho fatto. Però appunto adesso sono qua che vorrei andare per la mia sesta. Beh, intanto il primo passettino verso Londra l'hai già fatto. Sì, la prima regata di selezione è stata fatta e adesso c'è la seconda in Francia e poi l'ultima a metà maggio in Italia sulla Udigarda, e quindi ecco, a metà maggio si saprà chi se andrò all'Olimpiadi o no. Beh, noi ti aspettiamo già là a Londra. Senti, dimmi qualcosa, facciamo un po' di storia, dimmi qualcosa di personale sulle tue Olimpiadi, a partire da Barcellona. L'Olimpiade di Barcellona per Alessandra Sensini è stata che cosa? Beh, la prima Olimpiade non si scorda mai, perché insomma un sogno che si avvera, no? Ed essere lì in mezzo a tutti gli altri sport e a tanti atleti che per te sono sempre stati un idolo, è qualcosa di veramente unico. E Barcellona, tra l'altro, io stavo andando abbastanza bene, ero in zona medaglia, ero seconda, e poi le ultime due prove feci due partenze anticipate, venni squalificata e lì ci fu il patatrack. E quindi ecco, assaporai immediatamente quello che voleva dire essere ad un'Olimpiade ed essere lì per appunto vicini al podio, no? Per salire sul podio, e quindi la tensione che si fa sempre più forte, più pesante, e il fatto appunto di riuscire a tenere mentalmente. Questa è stata un po' la mia prima Olimpiade. Per te, aspetta, per te Andrea invece la prima Olimpiade è stata cosa? Seul. La prima Olimpiade non si scorda mai. Tra l'altro eravamo scarichi di ogni responsabilità agonistica, perché si arrivò per il rotto della cuffia con una storia. Ricordate che in quegli anni l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan. L'unico paese che boicottò le Olimpiadi fu Cuba, che era già qualificata, e quindi si liberò un posto che ci giocammo noi e la Cina, facendo una partita in Cina, a Shenyang, perdendo 3-2 in un posto assurdo. Tornando in Italia a Firenze a fare la seconda partita, e poi la bella in campo neutro in Svizzera, sul lago di Montreux, si vinse noi, e si arrivò quindi a Seul così, proprio col treno in ritardo, e fu un'esperienza bellissima. Fu anche l'Olimpiade che diede, come dire, inizio alla nuova era delle Olimpiadi. Si arrivava dai boicottaggi, e lì ci fu una grande riunione, ci fu poi il caso drammatico del caso doping di Ben Johnson. C'è qualcuno che dice l'Olimpiade più dopata della storia, forse trascinata dal clamore del caso di Ben Johnson. Non te lo so dire, ma certamente era l'Olimpiade in cui c'erano i tennisti professionisti, c'era Boris Becker, sì, c'era la Graf, c'erano i giocatori di basket, non ancora dell'NBA ma dell'università, e quindi fu un'Olimpiade veramente particolarmente bella. Io sono molto legato perché ero ancora giovane ed è comunque una delle Olimpiadi, non agonisticamente, non professionalmente, più importante, ma di grande importanza. Di grande impatto. Atlanta invece cos'è stata per te, Alessandra? La prima medaglia, ok, sicuramente. La prima medaglia, quindi sì, un po' diciamo il fatto di essere entrata nel meccanismo e poi assaporare il podio, insomma, è qualcosa di anche lì di unico, e mi ricordo solo che finita Atlanta ero lì che fremevo, volevo fare subito un'altra Olimpiade perché dicevo no, ti dici dentro sì ora ho capito come funziona quindi via e infatti l'avevi capito perché a Sydney oro, sai, io Andrea abbiamo un po' il pallino dei luoghi dello sport, ne parliamo sempre con i nostri ospiti, con gli ascoltatori, ecco, dal punto di vista così emotivo, l'Olimpiade più bella dal punto di vista scenografico, delle emozioni, del luogo, della gente, qual è stata per te? Da Barcellona, Atlanta, Sydney, dove pure hai preso l'oro, Atene, dove hai confermato con un bronzo, Pechino, dove sei andata ad un passo dall'oro, quale ti ha toccato di più? Ti tocca sceglierne una, Alessandra, è una domanda difficile, però scegliene una. Una sola, perché guarda... Inizia con una, via. Sicuramente Sydney è l'Olimpiade, cioè, più bella, perché lì coroni veramente tutto il tuo sogno, il vincere l'oro. Poi Sydney per noi, insomma, è una baia fantastica, come se fosse uno stadio naturale, no? Avevo veramente il pubblico lì che mi incitava, e per noi è una cosa strana perché normalmente siamo in mezzo al mare da soli, quindi ecco. Poi c'è Sydney, ha un'altra cosa bellissima, secondo me Sydney e Barcellona sono state dal punto di vista ambientale le Olimpiadi più belle, ma Sydney, cioè gli australiani volevano le Olimpiadi, erano felici di avere la gente, gli atleti, i turisti che fossero lì. Nelle altre città capita spesso che la gente che vive in quelle città se ne va, perché comunque l'Olimpiade è complicata e anche perché è molto remunerativo affittare gli appartamenti nel periodo olimpico. Invece a Sydney, dai tassisti alla gente, erano felici finalmente di essere al centro del mondo. È così? È verissimo, guarda, io tra l'altro mi aveva seguito mio padre con una delle mie sorelle, nessuno dei due parlava inglese, erano insieme anche al padre di un fisioterapista nostro, quindi avevamo tre persone che giravano, e dove andavano però trovavano sempre qualcuno che li accompagnava, cercava di aiutarli e comunque portarli sempre a destinazione. È stata un'Olimpiade fantastica, proprio la gente si la sentiva molto e l'ha voluta vivere fino in fondo. Tieni conto poi che per noi italiani in Australia c'è anche questa grandissima comunità, certo, ormai alla seconda terza generazione, però il club Marconi, il fatto che ci fossero italiani che sono fuori da moltissimo tempo, però ti fa sentire un po' a casa in un ambiente che naturalisticamente è veramente perfetto. Lei parlava della baia, ma tutta l'Australia è bellissima e Sydney è una città unica. Io avrei un'altra domanda per Alessandra Sensini, però il traffico in linea, bisogna rispettare i tempi. Alessandra, se hai un secondo solo, sentiamo insieme il traffico, poi vorrei farti una domanda in prospettiva, perché se a Sydney c'è quella baia, sentivi il calore della gente addosso, vorrei capire quali saranno le condizioni di gara a Londra. Traffico, poi torniamo. Un cordiale saluto da Armando Torno. Musica Maestro di questa settimana sarà fatta in collegamento con Mosca e insieme scopriremo la liturgia di San Giovanni Crisostomo scritta da Tchaikovsky, ma anche brani di Bach, di Cherubini e di altri compositori. A risentirci dunque questa sera alle 21. Un cordiale saluto e un augurio di buona Pasqua da Armando Torno. Yokohama, pneumatici pensati per chi guida, vi presenta Strade in diretta. Si formano delle code lungo la 9 Lainate Como Chiasso in direzione della Svizzera per operazioni doganali tra Como Montelimpino e la dogana di Como Brugeda. Attorno a Venezia, sul raccordo tangenziale di Mestre e aeroporto Marco Polo, ci sono code di circa un chilometro a causa del traffico intenso tra Favarodese e l'aeroporto. Circolazione scorrevole sul resto dei percorsi, raccomandiamo prudenza a chi viaggia sulla 6 Torino-Savona. Si è verificato infatti un incidente tra Savona e Altare in direzione Torino, non sono segnalate comunque code o rallentamenti. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Va bene che adesso gli adulti si vestono come bambini, giocano come bambini e pensano come bambini. Ma Radio 24, proprio all'asilo, doveva mandarci? È un programma sulla regressione, dove lo fai? Un programma di Cappa e Drago. Tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì alle 16.45. Su Radio 24. Tempo di sport. Sempre con noi Alessandra Sensini, pluricampionessa olimpica. Allora, di Sydney si è detto e abbiamo capito perfettamente, no, qual è stato il feeling con quell'Olimpiade, ovviamente ingigantito dalla medaglia d'oro. Atene lo sappiamo, Pechino pure. Alessandra, Londra come sarà? Londra, beh, stanno organizzando molto bene, e poi in Inghilterra la vela è uno sport nazionale, è comunque uno sport molto importante a livello olimpico perché porta sempre tantissime medaglie, e quindi noi saremo a Weymouth, che è un po' più a sud rispetto a Londra, sulla Manica, e è un campo di gara abbastanza buono perché normalmente passano tante perturbazioni e quindi c'è la possibilità di fare regate anche con vento abbastanza forte, c'è tanta corrente, è un campo di regata molto tecnico e logisticamente anche non dovrebbe essere male perché comunque è la base della federazione inglese. Sì, c'è da dire che insomma Alessandra Sestini ha in qualche modo aperto quest'onda dello sport femminile azzurro, che è il piccolo trainante del nostro sport, dei nostri sport olimpici. In Italia c'è una generazione di super donne per davvero. Bravissimo, bravissimo. Perché insieme con Josefa Idem, Contrellini, Vezzali sono un gruppo di donne che portano a casa tonnellate di medaglie d'oro, che hanno grande costanza e continuano a farlo, e devo dire che è veramente una grande opportunità per noi dell'Italia. Però mi piacerebbe sapere come la sente Alessandra, questa sua essere parte di una generazione di super donne. Beh, è bello, è sicuramente per me è un grande onore essere accanto a persone appunto atlete come Josefa, come la Trillini, cioè Giovanna. Io me la ricordo quando vinse l'oro a Barcellona, che io appunto non vinsi niente, la guardavo un po' anche con invidia, gliel'ho anche detto e poi siamo molte amiche tra l'altro, però è un qualcosa che mi ha spinto, no? Mi ha sempre spronato anche a fare di meglio e cercare di essere come loro, quindi è un onore essere insieme a loro. Un'altra curiosità però, visto che Carlo Genta in genere, lo dico a te Alessandra, parlo da atleta a atleta, in genere gioca molto sulla fase in cui gli atleti iniziano ad essere esperti, usiamo l'eufemismo, e quindi volevo sapere nel windsurf quanto è utile, quanto è importante avere dell'esperienza e quanto invece la prestazione fisica può essere determinante per la vittoria finale. Ma l'esperienza sicuramente conta moltissimo, perché il nostro sport, più diciamo hai esperienza con venti, mari diversi, hai visto tante situazioni, hai fatto tante regate, quindi insomma hai, no, tanti momenti che devi ricordare nel poi quando sei in regata e c'è l'attimo in cui devi prendere la decisione, e quindi avere esperienza sicuramente è un grande vantaggio, però l'aspetto fisico rimane comunque una parte molto importante e per la prestazione è indispensabile. Quindi non puoi tornare a fare Olimpiadi, scordatelo. No, io tra l'altro windsurf ci ho provato un paio di volte, ma ero più alto io dell'albero. Grazie Alessandra, un abbraccio. Grazie. In bocca al lupo, in bocca al lupo. E in bocca al lupo, e in bocca al lupo anche a chi racconterà le prossime Olimpiadi di Londra, come ben sappiamo. Giovanni Bruno, capo spedizione di Sky. Buongiorno direttore, ciao. Buongiorno, ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao Giovanni, ben trovato. Prima, mentre Alessandra Sassini raccontava della vittoria a Sydney, io ricordo che eravamo rinchiusi negli studi della RAI, a Sydney ho lavorato con la RAI, e Giovanni Bruno, che è un grandissimo appassionato di tutti gli sport di vela, ha vissuto i momenti finali della regata in piedi sul tavolo, raccontando, coordinando 76 schermi, intervenendo. Dai, Io lo dico, quel giorno piansi perché mi commossi per il semplice fatto, sai, le medaglie nella vela non è che ne abbiamo prese tante, c'è da ricordare tanti anni prima, insomma, anche diciamo, poi gli ori veramente si contano nel palmo di una mano, quindi vedere una medaglia d'oro dal vivo, anche perché vissuto in una certa maniera, perché si urlava, perché non si capiva se la Alessandra avesse vinto o meno, perché non c'erano sti collegamenti fatti in maniera perfetta, se ti ricordi Andrea, c'era Perlaschè, che era il nostro commentatore tecnico, che urlava come un pazzo ore e oro, e il nostro amico collega invece dice guarda, non è detto, perché bisogna fare un conto eccetera, cioè, alla fine poi eravamo tutti impazziti di gioia perché realmente Alessandra aveva vinto una grande medaglia. Però ricordando poi l'attenzione sempre per la televisione, perché non c'era tutta sta diretta, perché io ricordo invece quando Alessandra prese la sua prima medaglia ed era il 1996, tu pensa che domanda la faccio a voi, chi è che fece la prima intervista e chi fu mandato dalla RAI a fare l'intervista alla Sensini senza uno straccio d'immagine? Non lo so, aiutaci. Pizzul. Ma dai. Pizzul andò nel sito di regata del 96 di Atlanta a fare l'intervista ad Alessandra Sensini, medaglia di bronzo, senza uno straccio d'immagine. Immagine, arrivarono dopo. Qui servivo fuori classe. Questo per dirvi l'attenzione che c'era anche a livello olimpico della vela. Ma insomma, senti, direttore, sono piccoli nanetti, va? Nanetti, dimmi invece qualcosa delle tue Olimpiadi. Dimmi, le prossime certamente, e qui poi arriviamo a capire come sono le cose a Londra allo stato dell'arte, però di quelle che hai vissuto. Cosa ti sei portato a casa? Prima, parlavamo con Andrea della sua prima a Seul, io dicevo, passata la storia come Olimpiadi più dopate della storia, però certamente fu un'Olimpiadi di grande impatto. Tu dove hai tirato fuori le emozioni più grandi? Ma personalmente, più che professionalmente. No, ma io personalmente, io ho vissuto l'88 a Calgary tomba, quindi sì. Cioè, tomba è stata per me una delle emozioni più belle in assoluto, anche perché non facevo la telecronaca, la faceva Mario Cotelli con Sandro Vidrich per Telecapodistria. Io l'emozione più forte l'ho vista così appoggiata a una balaustra fuori la postazione di Telecapodistria, la discesa del fenomeno, perché realmente il fenomeno, ricordo i colleghi di Telemonte Carlo che all'epoca avevano la diretta, anche loro come Telecapodistria, che avevano una telecamera che diciamo nel parterre che ruppe praticamente i cuscinoni pur di entrare a fare l'intervista ad Alberto Tomba. Quella fu un'emozione incredibile. Un'altra delle emozioni incredibili fu la vittoria sempre dell'88 di Bordin, che la vivemmo in studio a Telecapodistria, perché anche lì, se vi ricordate, fu un recupero pazzesco di Bordin per arrivare primo, e io là stavo realmente sul tavolo a urlare, questo da un punto di vista emotivo. Hai urlato a Calgary, hai urlato a Seul, hai urlato a Sydney, praticamente sei un tifosissimo, vai. Ma io mi emoziono come un bambino, non c'è nulla da fare, sono le cose più belle, Andrea. Se ti ricordi, pure a Sydney stavamo lì come dei pazzi con le vittorie di Fioravanti, le vittorie di Domenico Fioravanti, di Massimiliano Rosolino nel nuoto. Cioè, noi aprimmo subito con delle cose straordinarie nel nuoto, mai viste. E anche lì, da un punto di vista lavorativo, l'Olimpiade di Sydney è stata una grandissima emozione, perché era bella la gente, bella l'organizzazione. Fammelo dire, era bella anche la RAI, perché per la prima volta 24 ore su 24 venne fatto un canale olimpico per la prima volta nella storia. Porto solo un grandissimo ringraziamento al direttore generale dell'epoca, che era Pierluigi Celli, che consegnò le chiavi di Rai 3 a Rai Sport per fare l'Olimpiade. Non è mai successo questa una cosa del genere. Volevo sottolineare che 24 ore su 24 non è un modo di dire, perché essendoci un fuso orario di 12 ore spostato, si faceva nella nostra notte Buongiorno Italia. Ok. Sì. Nel nostro giorno si facevano gli eventi, E quindi andava a finire che se andava avanti 24 ore al giorno, veramente molto bello, molto divertente, però fu anche molto molto impegnativo. No, molto impegnativo, molto stancante, però estremamente importante come tipo di messaggio per quanto riguarda il telespettatore. Questo, perché poi c'era la diretta che veniva seguita come coordinatore da Eugenio De Paoli, adesso direttore di Resport, la parte, diciamo, di rubriche e di commenti post gare, che era poi nel pomeriggio italiano, era fatta, era coordinata dal sottoscritto, con tutta per la prima volta uno stuolo di talent, di grandi opinionisti e personaggi che alla fine si sono divertiti, perché Andrea Zozzi era l'uomo lavagna, perché per la prima volta veniva usata la lavagna digitale con dei segni e cose, e tutti quanti provarono sta benedetta lavagna con dei risultati pessimi. Ti parlo di Cassani, ti parlo di Alessandro Campagna, che adesso è il CT della Nazionale ma prima era opinionista, ti parlo di grandi personaggi che provarono a disegnare un qualcosa di tecnico su sta benedetta lavagna, nessuno ci riusciva come il buon Andrea. E un altro grande personaggio era Yuri Chechi, che all'epoca si era infortunato e via di seguito, che ha passato tra infortuni ed altro, però nello stesso tempo poi ritornò vincente ad Atene, se vi ricordate, con una splendida medaglia di bronzo ancora agli anelli. Però Yuri veniva tartassato con, diciamo, perché nessuno sapeva dove era finita la Moseanu, che era un'atleta americana molto carina, e tutti quanti incominciarono a tessere le lodi di Yuri Chechi come grande amatore. Sì. Senti, direttore, io, se hai ancora un attimo di tempo, io devo fermarmi un istante, ma subito dopo tornerei, perché prima di salutarti vorrei Londra capire cosa ci aspetta a Londra. Perché insomma, il passato, io starei qui per delle ore a sentire questi racconti, però dobbiamo guardare anche al futuro, a Londra, e a capire cosa succederà. Un attimo di pazienza a tutti con Giovanni Bruno, Andrea Zorzi, a dopo. Sa essere una compagna, un'amica, una confidente, e sa stare sempre con te. Radio 24 è dove sei tu. Scarica le applicazioni per iPhone, Nokia, BlackBerry, diventa fan su Facebook, seguila su Twitter e avrai in ogni istante le anticipazioni e i contenuti della tua compagna preferita. Radio 24. La passione si sente. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Nel silenzio scorre il tempo, amico. L'una dopo l'una. Ecco, il tempo è giunto. Dalle piccole botti di legni pregiati, le prime gocce per il mastro distillatore. Sì, ecco le 18 lune. Grappa le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare. Il capitano vi dà il benvenuto a bordo di questo antico veliero. Esclusivo yacht. Lussuoso transatlantico. Che farà scalo Oslo, Atene, Ocho Rios. Chi sceglie una crociera ha un mare di possibilità. Dal tipo di imbarcazione alle destinazioni. Scoprite le proposte più originali con il mensile I Viaggi del Sole. In edicola. Yokohama. Pneumatici pensati per chi guida. Vi presenta... Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Nella giornata di Pasquetta il cielo sarà prevalentemente nuvoloso in tutta Italia, anche se a tratti il sole riuscirà a far capolino fra le nubi. Avremo il rischio di qualche rovescio temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane, sulle zone alpine e prealpine del Veneto, poi qualche fenomeno sulla Bassa Toscana, sull'Umbria e sul Lazio. Qui nel corso del pomeriggio le precipitazioni si potrebbero fare intense con anche qualche temporale. Non si esclude qualche pioggia generalmente debole e isolata nel sud della Calabria, in particolare la parte ionica, e sulla Sardegna. Le temperature massime saranno per lo più stazionarie, generalmente comprese fra 17 e 23 gradi, venti intensi al sud e isole a causa appunto dello scirocco. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. Per il meteo è tutto. L'Italia su una bandiera, su una medaglia, nella vita dei contadini, degli operai, degli artigiani. L'Italia in un libro. Quale fra i libri selezionati dal Comitato del Salone del Libro di Torino rappresenta più di ogni altro il nostro paese? Vota e racconta il perché del tuo voto sul sito www.radio24.it. In esclusiva per te, un buono da spendere su libreriarizzoli.it. Radio 24 è il Salone del Libro di Torino, perché chi ha letto l'Italia com'era aiuterà l'Italia ad essere migliore. Patente libretto? Sì, mi scusi. Dove va così di fretta? Sta scappando? No, no, no, ma è che il mio ragazzo voleva provare la mia nuova Trezia e io non so dirgli di no. Ah, dov'è? Nel portabagagli. Subaru Trezia, da oggi, guida lei. Scoprila in tutti gli showroom. Finanziamento fino a 15.000 euro in 48 rate da 357,65 euro. Tantra e 5 Tag 489. Fino al 30 aprile 2011, salvo approvazione istituto erogante. Info negli showroom aderenti. Quanto manca all'oasi? Ho un bruciore di stomaco. Sarà stato il couscous. Vuoi due compresse di Digestivo Antonetto? Già, e l'acqua nel deserto? Basta masticarle e ti passa il bruciore. Guarda, Digestivo Antonetto. No, è un miraggio. No, è Antonetto. No, è un miraggio. No, è Antonetto. È un miraggio. È Antonetto. Se talvolta soffrite di bruciore di stomaco causati dall'iperacidità, in farmacia c'è il Digestivo Antonetto. Le compresse di Digestivo Antonetto combattono il bruciore dando un rapido sollievo. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Il Digestivo Antonetto agisce presto. Appassionanti come un romanzo, avvincenti come un film, imprevedibili come la vita. I videogiochi sono la nuova passione di Radio 24. Video game. Ogni sabato alle 15.30 Stefano Gallarini conduce Videogiochi. Videogiochi. La rubrica di 2024 che vi racconta le nuove uscite videoludiche come se fossero un film e che vi premia con un buono da 300 euro da spendere da Troni. Videogame. Videogiochi. Ogni sabato alle 15.30 su Radio 24. Tempo di sport. Allora, io ringrazio per l'attesa Giovanni Bruno, che però ci deve raccontare che cosa succederà a Londra. Direttore. È una rivoluzione epocale. Sì, eh? Beh, ma lo spero, perché obiettivamente stiamo già lavorando molto sull'Olimpiade per cercare di offrire un'Olimpiade assolutamente particolare a chi avrà Sky nelle case, perché Andrea può immaginare, e tu pure, da questo punto di vista, quanto sia importante nel 2011 e nel 2012 cercare di dare una dignità totale a tutti gli sport, quindi non perdere assolutamente nulla, dove il telespettatore può farsi il suo palinsesto olimpico tranquillamente con un telecomando. Quindi diciamo appassionati, malati e via di seguito saranno accontentati, perché le previsioni sono di superare i 12 canali da dedicare all'Olimpiadi, di trasmettere quasi 1600 ore di diretta, di non perdere nessuna medaglia in diretta, di dare studi, approfondimenti, divertimento, cercare situazioni tecnologiche il massimo possibile, una specie di super portale televisivo da offrire nelle case. Una cosa piuttosto complicata, però nello stesso tempo diventerà tutta più chiara se uno ipotizza che ogni canale, ogni sport avrà un proprio canale, quindi ci sarà, non so, il canale basket per tutto il torneo, il canale volley per tutto il torneo, quello della vela per vedere la Sensini e le sue sorelle, diciamo, poter andare bene, da Weymouth, e insomma un po' tutti gli sport. Ci sarà un canale Italia che seguirà tutte le medaglie, quindi ci sarà anche un mix ovviamente del meglio di. Insomma, sì, c'è parecchia roba, parecchia carne al fuoco. Posso immaginare, anzi, no, per la verità no, non posso immaginare, però sono molto curioso. Ma sai, la cosa per me straordinaria è che ormai siamo arrivati al punto in cui è tecnologicamente possibile accontentare i pazzi maniaci di sport. Vero. Che vogliono vedere le cose, ma più piccole. Però a pazzi maniaci, cioè, io ho molti amici, ad esempio, appassionati di basket, che dicono: ma come, mi facciamo vedere l'Italia e va bene, però ci sono state delle partite storiche, io quelle non le ho viste. Perché? Bravissimo, esatto. Bravissimo. Poi, hai perfettamente ragione. Poi accontenti anche coloro che sono appassionati seri, ma che vogliono più o meno che ci sia qualcuno che fa un po' una scelta di importanza e quindi hanno già una specie di palinsesto un po' costruito. Poi c'è chi vuole invece solo il resoconto finale. Ebbene, Sky può fare tutto questo perché effettivamente è perfettamente in grado di gestire le necessità e i desideri di varie tipologie di sportivi. Buon lavoro, direttore, ne hai bisogno. Grazie, ma avrò dei validi aiuti, no? Uno ce l'ha al fianco, quindi figurati, non c'è problema. Così ti voglio, Giovanni. Il buon Giorgi, diciamo, diventa sempre più tuttologo. E comunque, positivo, E comunque a Sydney quella volta saltò sopra per dire no, perché la Sensini ha vinto. È verissimo. Purtroppo mi lascio trasportare, che devo fare? Sono il primo tifoso per tutte le discipline, ma lo potrà dire Andrea, diciamo, l'Olimpiade è una cosa completamente anomala sotto tutti i punti di vista di tifo e di cose. Ci siamo entusiasmati per il tiro con l'arco, cosa che nessuno, non lo so. È il parco giochi per noi adulti, direttore. Ma è verissimo. I bambini vanno a Euro Disney, noi andiamo alle Olimpiadi. voi guardate le Olimpiadi. Sì, fai il bravo solo perché hai giocato quelle due Olimpiadi, tre al massimo. Ma preso in giro prima per... ma lui gli dà fastidio che non ha vinto loro. Lo so. E io sai tutte le volte, io tutte le volte ci do dentro, ogni settimana sono lì a punzecchiare in tutti i modi. Ma guarda che adesso noi per obiettivo Olimpiade faremo un servizio che si chiama le Olimpiadi dannate, sono quelli, i grandi favoriti che non hanno mai vinto, no? Ci sono da Brendan Foster alla pallavolo italiana, alla nazionale italiana di volley, che era partiva con i favori del pronostico e se n'è tornata con argento. Meno male che non me la prendo per queste cose io, vero? No, figurati, non l'abbiamo mica fatta apposta. Oh, grazie direttore, buon lavoro. Un salutone, grazie a voi. Ciao. Grazie ciao. A Giovanni Bruno. Io tanto vado avanti, non è che è finito. Io vado avanti tutte le volte, io tutte le volte arrivo con lo Quando spillo, poi i radioascoltatori sentiranno un scataponce, vuol dire che ho perso la pazienza e anche il giorno di Pasqua. Sì, rompi le uova. Dunque, adesso a proposito, vero? Adesso, di secondi. A proposito di secondi. No, a proposito di schede. A proposito di schede, perché questa storia io morivo dalla voglia di raccontarla, però ci mancava l'interlocutore. La scheda ce l'avevamo di Cristiano Bartelloni, ma mancava l'interlocutore. L'interlocutore è arrivato, allora scheda. Tommy Smith e John Carlos sul podio. La testa bassa e il pugno sollevato verso il cielo. Accanto a loro Peter Norman, l'atleta australiano che ha vinto l'argento. Ai piedi del podio la delegazione che li ha premiati, immobilizzata da quel gesto di libertà. Abbiamo visto questa immagine migliaia di volte, senza accorgerci di un piccolo particolare. Tommy e John indossano un solo guanto, uno alla mano destra, l'altro alla sinistra. Ma andiamo con ordine. Nel 1968 la protesta degli afroamericani incendia gli Stati Uniti. Il mondo dello sport vive quotidianamente di una contraddizione lacerante. I tifosi si esaltano per le imprese di atleti di colore, salvo poi negargli i diritti fondamentali. Alle Olimpiadi di Città del Messico, Smith e Carlos fanno il loro dovere in pista. Vincono rispettivamente l'oro e il bronzo nei 200 metri e si avviano al cerimoniale del podio con un'idea ben precisa. Tutto il mondo sta guardando e Carlos, vittima della tensione, dimentica i suoi guanti. Ma la storia non si ferma davanti a un piccolo errore. Smith consegna all'amico il proprio guanto sinistro e i due possono salire sul podio e mostrare a tutto il mondo quello in cui credono. Pagheranno a caro prezzo la loro protesta. Già sulle note dell'inno americano sono consapevoli di dover rinunciare a tutti i benefici che una medaglia olimpica può donargli. Verranno espulsi dal villaggio olimpico la sera stessa, ma i due se ne andranno senza alcun rimpianto. Beh, questa è leggenda, questa è un'icona della nostra storia, non solo sportiva. Io qui ho davanti la foto, davanti quest'icona, peraltro questa storia raccontata da Nicola Roggero, nostro amico, sull'importante è perdere. Non sono mica convinto, caro Nicola, che qui abbia perso qualcuno, Sicuramente non hanno, chiedo scusa, buongiorno a tutti e a tutti, non hanno perso Smith e Carlos, che sono entrati nella leggenda non dello sport, dove soprattutto Smith avrebbe avuto diritto di entrare per quello che ha fatto in pista, quello che fece quella notte di ottobre a Città del Messico, ma sono entrati nella storia dell'umanità, non, quando si parla del 1968, che è stato un anno di grandi traumi, di grandi conquiste, di grandi battaglie, di grandi mutazioni, non si può che inserire quella straordinaria immagine dei due atleti americani sul podio, primo e terzo della finale di 200 metri, quindi è proprio uno di quei casi dove l'ordine d'arrivo ce lo si può anche dimenticare, contava tutto il prima, tutto il dopo, tutto quanto avvenne in seguito, è qualcosa di straordinario quello che fecero Smith e Carlos. Senza dimenticare che il dopo per entrambi fu piuttosto duro, perché è vero che hanno fatto un gesto che è rimasto un'icona della storia del mondo, non solo sportivo, ma entrambi loro hanno fatto piuttosto fatica ad andare avanti quotidianamente dopo quel gesto. Ah sì, guarda, ti faccio un esempio, Andrea. Smith aveva due lauree, non una, due lauree, e faticava a trovare un impiego da insegnante di educazione fisica nelle scuole medie, perché ovviamente Smith era stato messo all'indice, soprattutto Smith, ma lo stesso Carlos, da una vita piuttosto agitata, vennero costantemente spiati dall'FBI, soltanto dopo molti, molti anni hanno ritrovato la serenità normale, anche perché anche grazie a loro la popolazione afroamericana aveva compiuto quei passi in avanti che, come giustamente ha detto la scheda, gli erano negati normalmente, gli erano riconosciuti quando portavano medaglie d'oro allo sport americano e gli erano invece negati nella vita di tutti i giorni, una cosa che non capita fra l'altro soltanto in America. Io ricordo sempre che i francesi che si esaltavano per le giocate di Zinedine Zidane che riportava il titolo mondiale, bene, i genitori di Zinedine Zidane non avevano diritto di voto pur vivendo da moltissimi anni in Francia e a Marsiglia, quindi sono quelle contraddizioni spaventose che anche quel gesto aiutò a mettere in luce. Sì. Questa storia di Smith e Carlos e del paio di guanti diviso, com'è che l'hai scoperta? Guarda, francamente non ricordo. Io mi ricordo di essermi appassionato alla storia di Smith e Carlos da bambino. Non ebbi modo per età di vedere in diretta quella gara. Mi ricordo che la prima volta che vidi la finale di 200 metri di Messico, di cui si sentiva parlare, era sulla TV svizzera. E io quando vidi quell'immagine ero convinto che Smith fosse Carlos e Carlos fosse Smith, perché non potevo credere che l'atleta che era sbucato sul rettilineo in quinta posizione ebbe poi quello straordinario rettilineo finale, quegli ultimi 100 metri da portarlo a vincere non soltanto l'oro ma a demolire il primato del mondo che allora venne stabilito in 19 e 83. Era per questo che era chiamato a fare l'altro jet, perché dava veramente l'impressione di alzarsi da terra Smith, tanto era potente la sua azione. La storia invece l'ho scoperta credo navigando su internet, visto che credo ci siano non meno di 10.000 testimonianze di quella clamorosa vicenda, ed è la cosa che mi ha più incuriosito, ma che a mio parere al di là della curiosità dava proprio l'idea della tensione che vivevano questi ragazzi, anche perché la protesta degli atleti americani in Messico nacque addirittura prima dell'Olimpiade, quando Harry Edwards, che era il grande guru delle università californiane, e aveva addirittura stabilito di boicottare l'Olimpiade, di un boicottaggio dell'Olimpiade da parte di tutti gli atleti di colore. Si decise invece che era molto meglio fare un boicottaggio più visibile, cioè una protesta di quel tipo, ma non si sapeva quando farla. Il primo giorno adatto sembrava essere quello dei 100 metri, che fu vinto da Jim Hines, che era un altro atleta di colore, ma Jim Hines all'ultimo momento non se la sentì, e allora la scelta cadde sui 200, dove De Carlos accettarono questo compito e accettarono soprattutto di veder distrutta la loro carriera sportiva. Incredibile. Nicola, hai un attimo di pazienza, traffico, poi torniamo e facciamo altre due chiacchiere, perché insomma, sono storie veramente da pelle d'oca, anche perché io mi domando, innanzitutto sarei curioso di chiedere a Nicola e poi lo farò, se è stato chiesto a Smith e Carlos, ma vi siete mai pentiti di quel gesto? E poi voglio fare con voi una considerazione, ma quanti atleti oggi rischierebbero la carriera per entrare nella storia? Questi due atleti, guanto nero levato al cielo, piedi nudi, con calzettoni neri, le scarpe appoggiate ai piedi del podio, guardano verso il basso e chissà cosa gli passava per la testa. Incredibile questa storia. Traffico, poi torniamo con Andrea Zorzi e Nicola Ruggero. Nella vita si può essere esecutori o interpreti. Chi esegue aderisce a uno schema, chi interpreta fa di quello schema qualcosa di personale e unico. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mercoledì 27 aprile alle 11 con una puntata speciale di Essere Benessere, dove due maestri straordinari, Riccardo Chailly e Ramin Bahrami, ci faranno capire come la musica di Bach possa aiutarci a diventare veri interpreti di quello spartito che è la nostra vita. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, con nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Torno a Venezia, sul raccordo tangenziale di Mestre e aeroporto Marco Polo ci sono delle code di circa un chilometro a causa del traffico intenso tra Favorodese e l'aeroporto. La circolazione si mantiene scorrevole sul resto dei percorsi, anche le condizioni meteorologiche oggi sono buone per chi è alla guida. Domani invece è atteso un peggioramento con piogge sparse sulle zone tirreniche al centro, sulla Sardegna e anche al sud Italia. Temporali pomeridiani sono attesi anche su Alpi e Prealpi, in transito da est verso ovest nel corso della giornata. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con Strade in Diretta tra circa mezz'ora. Ci sono storie che leggiamo sui libri, altre che vediamo al cinema, altre invece che ascoltiamo alla radio. E le storie, che siano scritte o narrate, ci piacciono sempre per un'unica ragione. Perché raccontando di altri, raccontano anche di noi e del punto in cui ci troviamo. Io sono qui e questa storia è la mia. E voi? Dove siete? Io sono qui, di Matteo Caccia, da lunedì a venerdì alle 16 su Radio 24. Tempo di sport. Nicola, è stato chiesto a questi due atleti, è stata fatta quella domanda a questi due atleti? Non so se gli sia stata fatta. Io ho avuto modo di conoscere Tommy Smith 4 anni fa ai mondiali di Osaka, dove appunto ho avuto occasione di parlare di questa finale di 200, e vi assicuro, mi sembrava di parlare con una leggenda, no? Come se uno è innamorato di della mitologia greca e occasione di parlare con Omero, ecco, più o meno quella era la mia sensazione. O direttamente con Giove. sì, con uno del genere, insomma, non so, con Achille ed Ettore, sono qualcuno di simile. Dicevo, io non gli ho fatto la domanda, non so se gliel'ha fatto qualcuno, ricordo perfettamente però che tra le testimonianze c'è quella di chi vide il capo delegazione americana, che si chiamava Peyton Jordan, che quando vide i due atleti alzare il pugno guantato di nero al cielo, cominciò a urlare già nello spogliatoio dello stadio olimpico del Messico: se ne pentiranno per tutta la loro vita e la pagheranno per tutta la loro vita. Ora, che l'abbiano pagata per tutta la loro vita è indubbio, ma lo sapevano, questa è la parte più incredibile. A mio parere, però, non si sono mai pentiti, perché ci sono delle cose che bisogna fare quando è necessario farle. Loro erano consapevoli che in quel momento era il loro momento, e di quel momento sono stati poi dei testimoni importanti. Lo è stato fra l'altro anche il terzo del podio, quello che tanti hanno descritto come l'intruso, e non era per niente un intruso, perché Peter Norman era l'unico al mondo che conosceva cosa avrebbero fatto di lì a poco Smith e Carlos, e credo che ne abbiamo già parlato la volta scorsa quando ero interrotto la vostra trasmissione. Quando morì Peter Norman qualche anno fa in Australia, Smith e Carlos hanno preso un aereo, si sono fatti credo 10 o 15 ore di volo per raggiungere l'Australia e per portare a spalla la bara di quello che poi era diventato un loro grande amico. L'altra domanda invece di Carlo era se un atleta adesso farebbe la stessa cosa. La rivolgo a me, quindi faccio l'autodomanda. Temo di no. Temo che non avrei avuto coraggio di farlo. Naturalmente è difficile mettersi nei panni, impossibile mettersi nei panni in una situazione così complicata, però se penso ogni volta che mi hanno rivolto domande, anche molto semplici, che significasse prendere posizione su argomenti diversi da quello sportivo, interviene sempre questa voglia di io, se possibile, vorrei evitare di espormi, di dire, che è legittima, perché in alcune situazioni veramente non aspettano nient'altro che prenderti per la giacca e tirarti a favore o contro, però mi rendo conto che quel tipo di scelta è su un altro pianeta, è proprio una. Evidentemente anche la condizione, esatto, era... c'erano delle condizioni per cui era veramente una scelta di vita, però no? Loro l'hanno fatto, forse perché erano in due. Heinz non l'ha fatto, forse perché era da solo, e insomma ci vuole del coraggio. Sì, del coraggio che oggi sarebbe quasi, ma perché ci sono condizioni diverse, quasi impossibile da trovare, no? Si è fatta tanta letteratura, Nicola so meglio di tutti, sull'atteggiamento dei giocatori dell'Argentina nel 78 nei confronti del capo dello Stato di allora, di Videla, chi gli stringe la mano e chi no, e Kempes che gliela rifiuta, eccetera eccetera, sono bazzeco rispetto a questo, no Nicola? Sì, credo che anche i giocatori argentini non si siano trovati in una situazione facile, perché è chiaro che a voce ferma è facile dire io mi sarei rifiutato, io a Videla non gli avrei stretto la mano, io non avrei giocato quel campionato del mondo. Lì c'erano anche le famiglie dei giocatori, insomma non credo che i generali argentini andassero tanto per il sottile. Una curiosità, ma ho parlato prima di Heinz che fece la gara che veniva prima dei 200 metri di Smith e Carlos, e Heinz non si sentì di fare quella proposta. Dopo i 200 metri ci fu la gara dei 400, dove i neri americani riempirono addirittura il podio, perché vinse Lee Evans, anche lui più bravo del mondo, 43-86, poi il secondo fu Larry James e terzo fu Freeman. Lì addirittura c'era un podio interamente di colore, e qualcuno vide i tre ragazzi americani salire con il basco nero, che era il simbolo delle Black Panther, sì, sul podio, e qualcuno disse, ecco, ci risiamo. Poi non ci fu una protesta del genere, però ti si ricorda che Lee Evans, chi guardò quelle immagini di Evans, per tutto il tempo della cerimonia si continuava a ridere, e qualcuno alla fine gli chiese, Lee Evans tra l'altro un altro atleta iperlaureato, cioè uno studente modello, quindi una persona molto colta, qualcuno chiese a Lee Evans, ma perché continuava a ridere sul podio? E Evans rispose, io ero convinto che qualcuno mi avrebbe sparato, sapendo quello che era successo qualche giorno prima, e quindi mi ero messo a ridere dicendo, ridi, se ridi è più difficile sparare un uomo che ride. E questa fu la spiegazione di mamma Evans. Mia. Nicola, facciamo un salto di un po' di anni, cosa ne pensi di Carl Lewis che si candida con i democratici negli Stati Uniti? Ma non sono due cose diverse, a mio parere, lo sport e la politica. Negli Stati Uniti gli esempi di sportivi importanti arrivati poi alla politica ce ne sono stati, io ricordo Bill Bradley, che giocò anche in Italia nel Simmental, che divenne a lungo senatore, fu a lungo senatore del Partito Democratico e a un certo punto fu anche candidato alla, non alla presidenza, però alla rappresentare il Partito Democratico alle elezioni del 2000, quelle che poi vinse sì. Bush su Gore, che proprio sconfisse Bradley. C'è stato il senatore Kemp, che anche lui è un ex quarterback di football, tentò la scalata alla candidatura presidenziale senza fartela. Quindi è un paese dove lo sport, il passato nello sport dà qualcosa in più. In Italia invece si pensa sempre che lo sportivo, chissà perché, sia un po' un muscolare e basta, uno non capace di sviluppare doti intellettuali. Quindi in Italia paradossalmente penalizza un po', tanto che a parte Rivera non ricordo dei casi di sportivi diventati poi dei politici di primo piano. Quindi negli Stati Uniti aiuta. Non so se Carl Lewis ne ha i numeri, anche perché si è deciso un po' tardi, visto che Carl Lewis ha 50 anni, quindi la sua carriera sportiva è finita da 15 anni, insomma, forse potrà decidersi un prima. Non vorrei che fosse una scelta così, tanto per conquistare un'ulteriore passerella, visto che Lewis è stato anche, oltre a un fenomenale atleta, uno strepitoso uomo immagine. Sì, ha anche iniziato dicendo, io non ho mai perso una gara in vita mia, che nello sport è vero, ma forse in politica vale la pena sapere come rialzarsi dopo le sconfitte più che pensare di non sì. perdere mai. E poi magari ti tocca correre tutte le volte contro Ben Johnson con gli occhi gialli, Ma ecco, tra l'altro lì nel politica secondo me è più facile trovare gente che bara, Appunto. No, e non li squalifica, no? Non li squalifica, non gli tolgo mica le medaglie, come al povero Big Ben. Mi ricordo quella frase bellissima di Carl Lewis quando lo guardai sulla pista di Seul e lo vidi appunto gli occhi gialli, dissi il bastardo l'ha fatto un'altra volta. Nicola, confermi? Confermo che disse quella frase. Io peraltro ho l'impressione che se veramente i controlli antidoping fossero stati molto serrati in quella finale di Seul, avrebbe vinto il giamaicano Stewart, quello che arrivò ottavo praticamente rialzandosi, perché il poverino si strappò dopo 50 metri. Io ho dei grossi dubbi sulla Eau Claire, come dicono i francesi, l'acqua chiara dei primi sette classificati di quella finale di 100. Sì, caro mio. Nicola, grazie. Grazie, Nicola, grazie. Saluto ad Andrea. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Buona Pasqua di nuovo. Beh, anche oggi ci siamo divertiti. Io credo che queste, non lo so, queste storie che abbiamo raccontato, a me sono piaciute di più rispetto a cosa ha fatto ieri il Milan, la Juventus, l'Inter, poi ne parliamo tutti i giorni. Un cambio di ritmo a Pasqua ci sta. Invece di essere presi dalla cronaca quotidiana, che comunque è molto interessante, ogni tanto una sorta di salto, di sospensione, per guardare con l'occhio lungo non fa male. Aspettiamo feedback degli ascoltatori, se avete gradito rifacciamo, se avete gradito rifacciamo lo stesso, perché non ci siamo divertiti, quindi con Andrea ci ritroviamo sabato prossimo. Dai, vieni che andiamo a rompere delle uova, cosa dici? Ragazzi, buona Pasqua a tutti. Ti do la mia che trovi dentro le bollette. No, quella guarda, fa pure, bastano le mie. Io ringrazio, buona Pasqua di nuovo a tutti, oltre che al mio amico Andrea Zorzi. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Cristiano Bartelloni e a Mauro De Angeli in regia. A Tempo di Sport naturalmente torna domani dalle 2:00 alle 3:00, programmazione che non si ferma e che vi tiene compagnia sempre. Per quanto mi riguarda ci sentiamo venerdì, che sarà il giorno delle Final Four di Eurolega di basket con Pala Spicchi. Buona Pasqua di nuovo.